sotto casa tua. Per dirti ti amo. Porco rotto la migliore amica tua. Per incontrarti, amore, con quelli del branco ho legato palloncini al tuo motorino per farlo volare veloce con te a fianco a me, metafora del nostro amore piscina. Sei scesa e mi dicesti tu sei un bastardo, ma col sorriso di chi ama costi quel che costi, vogliamo via di qua, amore, come sti palloncini nei blu celesti. Ho giurato ogni cosa che faccio, lo faccio per te, che te voglia sposare vicino a te. Voglio essere il veglio l'uomo che hai conosciuto, ha giù sbagliato. Perdonami, a domani il nostro amore verrà. Se ho sbagliato era per proteggere il nostro amore, chissà. Abbiamo fatto pace anche con l'aiuto del branco. Ti dissi, e vola, e ancora tu mi dissi, perché io ho bisogno dei palloncini per volare. Mi basti tu, le vizia lo abbracciò e insieme a lui volò. E insieme a lui volò. E insieme a lui volò. I bambini del quartiere intorno vennero a vedere, a pretendere quei palloncini regalo d'amore. Si rivolsero a Nicolò con voi, da quando rispetta l'onore. Li legò ai polsi, ecco a voi bambini miei, con gli occhi le carezze e con le mani a regalare vizie. I bambini del quartiere intorno vennero a vedere, a pretendere quei palloncini regalo d'amore. Si rivolse a Nicolò con voi, da quando rispetta l'onore. Li levò i polsi, ecco a voi bambini miei, con gli occhi, le carezze e con le mani a regalare le vizie, a regalare le vizie, a regalare le vizie. Poi abbiamo fatto pace anche con l'aiuto del branco. E ora io ancora mi dissi, non tengo bisogno dei palloncini per volare, mi basti tu le vizie, lo abbracciò e insieme a lui volò, e insieme a lui volò, lo abbracciò e insieme a lui volò, e insieme a lui volò. Ho bisogno dei palloncini per volare, mi basti tu Letizia, lo apprezzo, e insieme lui volò, e insieme lui volò, e insieme lui volò. Insieme lui volò. Insieme a lui volare.